Ed ora tutti i campanili della vallata, da Arta a Zuglio, da Cercivento a Zovello, da Ravascletto a Noiaris, da Paluzza a Treppo Carnico, da Paularo a Priola, da Timau a Ligosullo, lanciano gli argentei rintocchi delle loro campane per dare a voi, amici emigrati, l'accorato, nostalgico saluto della carne. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 47esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo e adattamento di Dino Menichini e Ermete Pellizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e cantori di Sutrio, Noiaris e Priola. Musiche e canti popolari. Villotte di Giulio Moro e Meni Zannier.